C. Ascolta e controlla. Un vicino gentile e generoso. Gentile signor Rossi, so che deve partire con tutta la famiglia per le vacanze e non sa a chi affidare i suoi canarini e il suo cane. Se per lei va bene, posso curarglieli io. So quanto è affezionato a loro, ma parta tranquillo, si diverta e non si preoccupi. Sono sicuro che rimarrà soddisfatto e che i suoi amici non sentiranno la sua mancanza. La saluto. Paolo.